era un tasto. Ho visto un video adesso. Praticamente adesso sto reimpostando il PC. E poi li reinstallo il sistema operativo. Era tasto shift, praticamente funziona così. Vai per il riavvio. Tieni premuto il tasto shift. Tieni premuto, fai il riavvio oppure ti apre una schermata blu. E da lì procedi al reimpostare il PC. Ho capito. Ma è tutti i PC così, Di solito sì. Questo alla fine non è proprio un computer, perché c'è la scheda di un tablet dentro. Non c'è manco ventola. C'è la batteria di un tablet. Però come memoria una SSD da 256 giga. Ho capito. Quindi tu allora lo spegni il PC, schiacci shift e lo riaccendi, tenuto premuto lo shift, così è. Toni, al PC acceso, tieni premuto lo shift e fai riavvio e poi ti apre la schermata blu. Ah, cappa. Adesso vi voglio raccontare una storia di quando ero ancora ragazzo, che stavo lavorando sempre lì, dalla Fiorentina, forse ero nel 57, forse nel 58 più o meno, e arrivavano lì gli imballaggi per i lampadari, no? Perché noi vendevamo articoli elettrici, materiale elettrico, fili e tutte queste cose qua, e però arrivavano anche i lampadari, eccetera, no? Perché noi vendevamo anche lampadari in quei negozi. E dunque arrivavano le casse piene di imballaggi con la paglia, eccetera, eccetera, dentro. Questa paglia poi andavamo a portarla dove ci sono adesso le stazioni del Puma, lì, a Santa Maria in fondo, dai, per andare su per la strada di Itti, o quella che è quella. Insomma, dove c'è la stazione di Puma adesso, dove si fermano le Puma. A un certo punto c'era questo tipo, un giovane che aveva allora 28-30 anni, che lavorava da noi in negozio, e aveva la lambretta, due di quelle lambrette, di quelle tipo monopattino, o Natali, forse tu le hai conosciute, senz'altro quella. E mi fa, io che andavo a portare via la paglia da quell'uomo in campagna, negli orti che c'erano lì, prendere la lambretta, io siedi, era il carretto, perché c'era il carretto di quelli a mano, no? Con un piede centrale che rimaneva sempre bello orizzontale e con la cassa piena di paglia dentro. Sì, dai, piano piano, io tu tieni il carretto, io ti sposto piano piano, va bene, capita. E lui mi ha detto, no, mica non ce la faccio io mantenere il carretto, ero un ragazzo, avrò avuto io 15 anni, avrò avuto più o meno 15-16 anni. Arriviamo davanti alla stazione dove c'era una volta del fornitore, che tanti di voi non l'hanno conosciuto, che era all'angolo della Provida, dove c'era il cinema lì, dai, e all'angolo lì c'era un fornitore, c'era. Capita, questo deficiente da un'accelerata, io come ho sobbalzato con la moto, tocca il piede centrale del carretto per terra e mi strappa il carretto dalle mani e incomincia a camminare questo carretto da solo. E lì al parcheggio della stazione c'era una di quelle giardinette, di quelle macchine con tutta la struttura in legno, eccetera. E la stanga del carretto è andata direttamente dritta nella fiancata di questa macchina e l'ha sfondata, ragazzi, mamma mia. Che danno. E ha detto, signor Aldo, adesso come facciamo? No, siedi, dice, ce ne andiamo, non ti preoccupare. E io mi dico, non preoccupare, io sono un ragazzino, la colpa è la sua che mi ha portato, mi ha 30 anni lui. Beh, fatto sta, abbiamo sfondato questa macchina e poi non si è saputo niente. Non lo so se avevo superato i secondi, avete sentito il fischio, avevo superato i secondi perché è regolato così questo baratino. Dopo 180 secondi si blocca per non continuare, capito Marco? Ah, il time out, sì. Lo puoi escludere anche volendo. Si può escludere, però sai, è meglio, aiuta a non scaldare troppo i finali. A Paoletto sarebbe tornato tutti in un sistema del genere. Una volta ho fatto un passaggio tipo un'ora e un quarto, roba del genere, un'ora e mezza, ma poi quante ne hanno dette dopo me? lo so, prima era così, ma non era solo Paoletto, c'era un altro una volta che anche lui stava tre quarti d'ora, un'ora, con la l'arbitro di calcio faceva, e infatti noi da un canale all'altro andavamo, ci spostavamo e poi ritornavamo da lui, ritornavamo e lui sempre parlando da solo e noi in altri canali invece, per carità. Vai Natalizia, abbiamo fondato la Bianchina, cosa era, quella macchina lì, la parete di legno aveva Natalizia. Un attimo, sta facendo cosa? Riprendete. Stai ripristinando un computer? Sì, scusate un attimo che sto facendo la... Come andare a configurare da zero? Con quello mini che abbiamo... Una configurazione di Alexa. C'ho un po' l'ascolto, dai. Diga. Tutti computerando. E anch'io avrei dovuto. Mi è arrivato un accessorio nuovo. E lo devo ancora inaugurare, devo vedere se funziona, devo controllare anche le tensioni di uscita, che deve alimentare un floppy, un lettore floppy di quelli interni di una volta. Sono curioso di vedere cosa troverò in quei dischi tutti accatastati K. E quindi Giulio, ogni tanto ci dilettiamo, che poi a me piacciono le cose sempre strane, tipo ho preso un adattatore che serve a leggere i vecchi di hard disk, che sono hard disk di computer a torre, no? Ormai obsoleti, non funzionanti, però l'hard disk è buono, lì puoi recuperare tante cose, password, foto, qualcosa di utile, oppure il hard disk lo puoi formattare, no? Ripulire e riutilizzare come stoccaggio, no? Per tenere roba, documenti, foto da parte, no? Come archivio mi ecco. Appunto, ci vogliono questi adattatori per trasformarli in USB, no? Li attacchi tipo chiavetta, capito Giulio? Sì. E anche io infatti ho dei CD da vedere, ma ho anche il DVD, ho sempre quello, e devo adesso cercare di installarlo nel televisore grande, il televisore da 55 pollici, qua, non lo so perché lì non l'ho mai trovato. E devo trovare la presa giusta per poterla installare lì e vedere se riesco a farlo aprire questi CD nel televisore grande. Nell'altro piccolo sì, che poi non è tanto piccolo, 44 pollici, lì già arriva, cioè già riesco a farlo aprire. Nel quello grande, nello smart, ma non riesco a... cioè non lo so dove si attacca, ma ci sarà pure una presa adatta per attaccare questo DVD che ho, boh, non lo so, vedremo, dai, devo controllare bene, studiare cosa posso fare, per vedere, anche perché me l'ha chiesto anche mia moglie, che anche lei ha dei CD di lavoro, eccetera, che vorrebbe rivederli, perché abbiamo un CD, adesso mettimelo nel televisore grande, così li vedo meglio, hai ragione, se trovo il sistema già vediamo cosa si può fare, va bene, avanti Luca. Sta configurando roba anche lui. Giulio, ti volevo dire, siccome poi io nel frattempo avevo attaccato quella cosa lì, vabbè, lì ex ho già capito che non ne farò, dai, perché poi davvero ti fa la testa a pallone. Il segnale è migliorato, dimmi se sta saturando o se è normale. No, la radio è uguale, identica come toccate, se non me lo dicevi non guardavo nemmeno lo switch, dunque non avrei capito che avete messo qualcosa. No, è normalissima, no, tranquillo. Sì, e adesso sono modulati, saranno 50, tondi, modulati. Va bene, l'importante è non saturare. E questi sono carini perché come le 747, no? L'importante è che gli dai pochi watt d'ingresso, non superare, io gliene sto dando 4 modulati, pensa, modulati, l'importante muta 3,5. Una volta che soddisfi quel requisito, questi non saturano mai in AM, perché l'AM dà problemi, e non tanto la banda laterale, l'FM tanto meno, non dovrebbe darne proprio l'FM. Ok. Ascolta, mi dicevi, ma questo lettore DVD che è uscito avrà la SCART, quella rettangolare con tanti piedini, avrà anche forse l'uscita audio-video con quei connettori tondi, tipo uno giallo, uno rosso, uno bianco, una cosa del genere. Però se non ha l'uscita DV, aspetta, come si chiama? HDMI. I televisori nuovi usano le prese HDMI, a meno che il tuo non abbia anche la scarta, no, la scarta la escludiamo perché è troppo vecchia, però potrebbe avere gli ingressi audio video. Il connettore si chiama come si chiama quel connettore lì? Mamma mia, la memoria, ricordatemelo. RCA. Come, Nathalie? RCA mi sembra che si chiamino. Esatto, RCA. Oh, quello tondo si chiama RCA, che ha il pirolino in fuori. Giulio, se ha almeno quei connettori, il televisore riesce a collegarlo, quello. Tu non ti ricordi che uscita abbia il suo lettore DVD, no? DVD non me lo ricordo, la verità, però mi ricordo che prima lo utilizzavo con la Predacard, ma non so, forse ci sarà qualche adattatore in vendita, bisogna che chieda a qualcuno, non lo so, o perlomeno che mi venga tutto il libretto di istruzione che mi ha dato dello smart per vedere se c'è qualche collegamento da poter eseguire, perché lì, cioè, nello smart, diciamo, non hai bisogno di niente, perché lì hai tutto indistintamente. Se vuoi vedere un programma che è stato già trasmesso, che tu non hai eseguito, lo puoi chiamare, lo puoi richiedere e lo vedi, per dire, una partita di calcio, tanto per fare un esempio, eccetera eccetera. Però non ho mai attaccato, ho interfacciato mai un DVD o qualcosa di più, ad esempio anche il registratore che ho, non lo so se si può attaccare, se funziona ancora, il registratore è quello a cassette, non lo so se ancora quello lo posso usare. Nell'altro televisore sì, lo posso fare, perché io i televisori qui a casa li ho funzionanti, installati ne ho 5 addirittura, uno in ogni angolo praticamente, perché io ho la casa a più di vidri, per cui ho avuto necessità di avere 5 televisori installati. Però in questo smart non ho mai provato niente, la verità, non lo so, capito Marco? Allora i videoregistratori a cassetta hanno, quelli hanno la presa SCART, e se non hai la SCART non lo puoi, se il televisore non ha la SCART non lo puoi attaccare, però ormai trovi tutto, anche se giri su internet, perché a Sassari vabbè non ce li hanno, non hanno niente a Sassari. Niente di niente, però su internet trovi convertitori che bene o male ti convertono da SCART a HDMI. Naturalmente la qualità rimane quella della cassetta, se non peggiore per via della conversione, no? Perché questi convertitori insomma sono sempre un adattamento, una via di mezzo, già ci siamo capiti. Però dovresti trovare, è che ti costa più il convertitore magari che non ormai il videoregistratore. Io vabbè, ho la fortuna che in camera ho un 29 pollici, perché tanto di più non ci sta, che lì è tutto tra stereo, coso, di più non ci sta. Ho provato il 40 di mamma, ma era terribile, non potevi collegare niente dietro, non c'era lo spazio. E ti dicevo, questo 29 pollici che me l'aveva regalato mia zia aveva la fortuna che non era recentissimo, però aveva l'attacco HDMI, quello moderno, la presa SCART e anche gli ingressi audio video, tutto. Questo televisore me lo devo tenere caro, perché ci uso i lettori di cassette e ne ho, mi pare, 1, 2, 3, 4, 5, 5 videoregistratori, però funzionanti 4 in realtà, l'altro ce n'è uno che non sta andando bene. Ci posso attaccare tutti, i vecchi lettori DVD, tutto quanto. Sì. Infatti prima di questo smart di adesso, questo ce l'ho, cosa ce l'ho? Un annetto ce l'avrò più o meno. Avevo dato l'altro, cioè avevo, mi ero disfatto dell'altro televisore che c'era prima, l'avevo portato a loro stesso. E mi sembra che mi avevano dato un piccolo sconticino, adesso non mi ricordo, forse 100 euro, 150 euro più o meno, per averglielo consegnato. Funzionava, però ormai era buio, come qua non era più. Funzionava sempre, però ormai era diventato un po' buio, per cui non era. Lì addirittura avevo sì gli attacchi LC, e quello lo usavo per fine mi sono rotto e ho tolto anche la parabola, adesso non ce l'ho più, però mi sta venendo l'idea di rimontare la parabola, per cui se avevo la parabola, quelle da un metro di diametro, non di quelle da 80, quelle da un metro, e c'era il motorino anche che giravano a 180 gradi da una parte all'altra, prendevo tutti i satelliti che ci sono in orbita, li prendevo tutti, prendevo anche partite di calcio, prendevo di tutto e di più, e seguivo, non io, ma mia moglie seguiva molto le tradizioni tedesche, eccetera eccetera, mi piacciono molto quelle, anche quelle spagnole eccetera, però adesso no, non c'ero la parabola, per cui, ma prima o poi mi salta in mente e la rimetto, non c'è problema. Vabbè, dai, qualcosa farò. Avanti, tanti amici, sì. Sì, che ci sono. Cos'è quel rumore? Vedi dietro, Natale, cosa c'è? C'è un rumore, cos'era? In 40 metri. Ecco, qua dovrebbe essere. Con quel ricevitorino, ho visto che riceve anche qua l'antenna sua. Ma quello che ho io anche, quello a radiolina. Ehi! Ehi, naturalmente con l'antenna, te l'ho detto, risonante, ben se in alto è un bijou. Un bijou veramente. Da fare impallidire l'857, perché in macchina era silenzioso 1857. Però perché era silenzioso? Perché naturalmente l'antenna veicolare era più corta, la ricezione era minore e riusciva a non prendere troppo QRM, anzi ben poco, per non dire nulla. È bell'apparato quello, tu già ne sai qualcosa anche tu, però d'altronde non usavo e insomma va bene. E quindi Giulio, sì, qualcosa lo puoi trovare come adattatore. Ormai ti dirò che anche i Blu-ray, i lettori Blu-ray, credo che stiano diventando quasi pezzi rari, perché la gente ormai guarda i film e streaming, cioè non compra nemmeno il Blu-ray, si paga l'abbonamento per quelle piattaforme in rete, online, no, su internet, e ti guarda i film direttamente da Netflix, quello che è, HBO, ce ne sono così tanti che non me ne ricordo nemmeno. E proprio per evitare di non trovarne più, io avevo comprato un Samsung, no, un LG, un lettore Blu-ray LG, un po' economico, no, senza troppi fronzoli, e tanto da leggermi gli innumerevoli DVD che ho già, e in più, volendo qualche Blu-ray al limite acquistato, volevo prendere, sai cosa, almeno per testare proprio la funzione Blu-ray, quel film Avatar 2, La via dell'acqua, quello è spettacolare come grafica, e quindi è ottimo per testare il lettore. Capito Giulio, però vedi, questo per contro, questo lettorino Blu-ray è economico e c'ha solo l'uscita HDMI, esclusivamente un'uscita HDMI, non ha più nemmeno gli attacchi RCA, quindi se tu volessi testarlo su un televisore vecchio che ne sia a tubo catodico, cosa impossibile, perché io qua non ne ho più, non potresti farlo, lo puoi usare solo sui televisori moderni. Mi prendi Giulio? Ok, sì. Sì, infatti, no, l'unica cosa che ho provato è questo televisore, l'ultimo arrivato, diciamo, ho usato la chiavetta, quello sì, con dei filmati, che poi tra l'altro sono dei filmati di mio fratello, dai, che me li ha dati lui, ci ho messo la chiavetta e è tutto un programma suo di quando canta, eccetera. Vabbè, ma a parte quello, qualche cosa troverò, senza dubbio, no. Non ci sono, perché ci sono diverse prese e non capisco a che cosa serve. Addirittura c'è anche una presa telefonica, aspetta un po', una presa proprio per il telefono, oltre al fatto che c'è la presa anche per la parabola, c'è tutto, c'è la presa per la parabola, la presa per l'antenna normale, quella di stare terrestre, l'antenna del telefono, poi ci sono altre 4-5 porte, ci sono, che non so a cosa servono, una di queste uso la chiavetta, vabbè, le altre non lo so a cosa servono, sperimenterò, vedrò di capirne qualcosa, mi dovrò prendere la briga di leggere il libretto di istruzione, perché io ho l'abitudine, prendo un'apparecchiatura, non leggo mai il libretto, niente, prendo, attacco e faccio funzionare al naso, così e basta, senza mai guardare il libretto di istruzione, sono pigro a leggere nata lì. Ma Luca ancora c'è? E Luca già sta configurando qualcosa. Ma piuttosto avevamo lasciato Franco in in ricezione, l'abbiamo lasciato in bianco, cioè. No, ha fatto quel RT. No, Franco voleva solo controllo, pure aveva chiuso lui, stava lavorando, non so cosa stesse facendo. Sicuramente stava lavorando su qualche microfono. Infatti era quello che gli interessava, il controllo. E basta. E io fra un po' ve lascio perché adesso fra un po' c'è la partita del Cagliari, Cagliari, cioè Juventus Cagliari, vabbè, oggi mi dispiace per il Cagliari, sicuramente perderà, ma ancora non ha perso, bisogna giocare la partita. Io sono juventino, però mi piacerebbe che vincesse anche il Cagliari, ma oggi però ho la sensazione che la Juve la batte al Cagliari, perlomeno stando alle previsioni sono quelle, non ci sono dubbi. Speriamo bene, adesso vediamo, comunque, avanti Marco. Giulio, sì, dimmi qua. Cosa dici, ha migliorato o peggiorato come adesso? Ma diciamo che è sempre molto forte, però più o meno è uguale, non niente di più, è un po' meno della prima volta, è un po' di più di tuo passaggio che avete fatto, però va bene, dai, può andare bene, non c'è problema. Ok, dai, era sempre, mi interessava qualcosa attaccato. Vabbè, adesso sono liscio proprio, con 5 watt. Ok, capito. Sì, sta andando molto forte. La radio è molto forte, per cui va bene. Avanti, Natali. Ok, dai, scusa Natali. Vabbè, vi lascio, dai, che continuo. Casomai rientro dopo. Riprende Natali. Vabbè, riprendi dopo al limite. Anche qua è forte, direi quasi eccessiva, perché si sente più che altro il rumore di fondo, le voci del QTH, capito? Però io prima preferivo, quando sei entrato all'inizio, il primo passaggio, perché qua arrivando basso, essendoci propagazione e splatter, mi piaceva più il primo passaggio. Col secondo la modulazione era un po' più risicata, e, però ripeto, è questione che io sono coperto, c'ho la collina e tutto. Adesso è, diciamo, quasi un po' quasi eccessiva, perché veramente si sente troppo il QRM familiare, si dice. Ci hai capito, Fra? Capo, sì, ti ho capito. Ah, ti piace più come adesso, agganciato? No, ho detto, adesso è eccessiva perché si sente troppo rumore di fondo, le voci e tutto. Ah, capo, sì, ma quello glielo possiamo anche un po' diminuire. Aspetta. Ok, probabilmente adesso è più diminuito. Meglio, dai, ok. Fra, io adesso sono con 50 watt, adesso avrà migliorato un tantino. Sì, perché guarda, quando c'è la propagazione è una bulottumi, devi anche arrivare al sorso. Lo so, sì, ma anche io sono, a dire la verità, io adesso l'ho agganciato e sono 80, quasi 90 watt modulati. Sì, Santiago 8 e mezzo, dai, c'ho lo smitter a LED, a cristalli liquidi, però 8 e mezzo anche quando moduli di picco. K, va bene. E Natalino, puoi riprendere, stai reinstallando un sistema operativo? No, Luca stava facendo cosa, io no. No, avevo capito, no, credevo che stessi chiedendo informazioni per lo stesso armeggiare sui PC, perché mi avevi detto una volta che avevi avuto un problema sul cosa, sulla torre o sul portatile? No, sulla torre, non ne ho portatile, c'era uno ma l'ho prestato a un amico che era rimasto senza computer e quindi l'ho prestato a questo amico qua. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Ciao Giulio. Ciao Fra. Così andiamo bene, così dai, abbassato un po' la radio, così va meglio, senza dubbio, più chiara, più ascoltabile, dai, prima era troppo forte, o forse non so se era la potenza o dei watt, oppure il microfono, comunque credo di aver sentito, forse Franco, che chiama dall'Argentiera. Avanti, che chiama dall'Argentiera per Sassari. Eia, ciao Franco, Santiago 6 e mezzo, Santiago 6 e mezzo oscillante, 6 e mezzo, però capibile, vediamo se Giulio ti copia, e poi Natalino, vai Giulio. L'ho sentito basso basso, l'ho sentito, ma non si capiva quello che gli stavo dicendo, basso basso, aspetta che mi faccio sentire io, perché se no non mi sente lui, ecco. Ti ho sentito basso basso Franco, ma non capivo molto bene quello che dicevi, dai, ritorno come lo prima. Attenzione Franco, hai copiato Giulio? No, era aspetta che ti mando Natalino, vai Natalino per Franco California. Ma deve essere in movimento, perché io l'ho sentito come è entrato e stava parlando con te, adesso non è comprensibile. Sì, allora Franco, ti spiego, abbiamo uno splatter tremendo dall'11 dove c'è un americano che sta urlando, tutta la sera che sta urlando, e quindi disturba anche quello, capito? Sì, Santiago 7, ripeto, Santiago 7, radio vabbè, 3, però capibile. Natalì, provate a sbloccare lo squelce, non lo so, vedete un po', e come mai io lo ascolto 7 e voi nulla, nemmeno Giulio. Io l'ho sentito basso prima, al primo passaggio, ma adesso non lo sento proprio per niente, e beh, se sta transitando in macchina da qualche parte avrà una zona, diciamo, d'ombra. Adesso lo sento anch'io quello dell'11, aspetta che passo e gli dico andarsene a fanguarla. Eia stava parlando nel frattempo, quindi Franco è in baramobile, una curiosità, fra che antenna stai utilizzando? Aspetta che c'è Natalino sull'11 che sta dicendo agli americani di abbassare le voci e mi sta ascolterando. Oh Giulio! Io Natalino non lo sento, io quando si sposta di un canale non lo sento più, assolutamente. No, non ne prendo di splatter. Sento solamente quell'americano, sì, quello già lo sento. Quello è fortissimo, si sta usando 3000 watt quello, senz'altro. Franco io non lo sento, ma chi è Franco California o Franco Binario? Penso che sia Franco California. Sì, confermo, è Franco California, è in baramobile, non so se sia macchina o camper, verso Argentiera, ha detto anche la zona ma non ho capito bene, perché ti ho detto questi americani hanno un'emissione talmente sporca che li senti su 3 canali, li senti sull'11, sull'12, no, sul, vabbè già hai capito, sul 10, sull'11 e sull'11 alfa. No, forse ascolta a me, Franco mi senti? Franco mi senti? Oh, non c'è più. Sì, ti ho copiato. Mi hai detto, mi ascolti, vabbè qua sono un po' basso perché come diceva prima Marco ci sono degli slatte dall'11. Comunque ti ascolto, dai, un po' bassino. Come ti arrivo io lì, fra? Ah ok, 5 e 7, va bene. Sì, Giulio tu non l'hai copiato, vero? lo sento basso, Giulio, ma basso basso, però già riesco a tirarlo fuori. Io non lo sento, non lo sento, non so, Franco, dimmi se mi senti, mi fate la fonte voi, Luca o Marco. Franco, non so, io non riesco a sentirti, non, assolutamente, poi dimmi se mi ascolti me. Franco, l'hai copiato Giulio? Ciao Franco, dai, buon proseguimento di serata, ci sentiamo poi a Sassari in condizioni migliori. Ciao, vai Luca. Ciao Fra, alla prossima. Se sei con Lucia, salutamela, se mi sta ascoltando, non lo so. Alla prossima. Saluto anche Giulio, questo non lo senti. Avanti. Ciao Franco, se mi stai ascoltando, Io purtroppo negativo qua. Dai, sei un bel sacco. Ok, a me non mi ha sentito, vero Luca? Non mi ha sentito, eh? Mi sa di no. Io arrivavo 5-7, ma sono agganciato, Pure io. Lo so che ti sei agganciato tutti e due, io lo so. No, ma poi qui, nella zona della dentiera, con tutte le curve che ci sono, con le UI, no, sono in basso, tra l'altro. È molto in basso, per cui non potevo sentire. Poi l'antenna mia è molto bassa, no? Vabbè, un tantino le avevo dato qualche watt in più, ma non credo che gli sia arrivato lì. Ha sentito, ci arrivo sparato, mentre invece la gente era un po' più difficile, dai. Scappa. E com'è questo tono? L'ho programmato al computer su questo apparato, con toni a caso, ho messo delle frequenze a caso e sembra una specie di beep alla Pomponio. Ma nel mio si può fare, Marco? No, allora no, quello no, quello ha un tono solo, lo puoi attivare da tastino frontale, ma non programmare. Questo invece ne ha di serie, mi pare 4 o 5, e ne puoi programmare fino a 10 o 15, adesso non mi ricordo, col programma. Questo però è il 7009, Natalì, ricordati, sul 7009, sul 9009 lì puoi programmare. Ma io c'ho questo qui, non ce l'ho quell'apparecchio lì. Vabbè, faccio almeno del VIP. Già lo credo che ero saturo poco fa. E cosa avevi fatto? Sì, sughe. Stavo uscendo a massima potenza con la radio regolata così. E sto usando l'altro. No, il cavallo. Ascolta, glielo piazziamo a Paoletto il baracchino, perché mi sta sempre scocciando che chiama a casa per chiacchierare, poveretto, che si sente da solo, e mamma gli dà retta perché, vabbè, lì è lì, non parla con nessuno, non potendo uscire. Ma almeno gli mettiamo il baracchino, poi ve lo grattate voi in 27, almeno non chiama me. Ah, così è. A me si l'occhio mi. Aspetta un attimo, voglio provare una cosa. Voglio provare. Guarda, bene va la radio. Oddio, credo di sì. Cioè ha cambiato da poco fa adesso. Natalì, ci vuole un orecchio più esperto, non so, Luca magari se ne accorge di più. Luca. Aspetta, fino che so. Sto importando, non ci riesco, questo Google Home, quello tipo Alexa. Eia. Tutte cose intrusive, io non le posso vedere, guarda, Cortana, tutto disattivato anche su Windows, Cortana era un assillo, Alexa, tutte queste cose qua, Siri, quante sono? Secondo me ti ascoltano anche quando non devono ascoltare, capito? Quatti, è una specie di Trojan di Stato quella roba lì. Infatti. Luca, guarda a vedere la radio, cambiato da poco fa. Questo è meglio, poco fa è un bel sattro. Per forza, riesci sente come sento un vatto. Ah, ecco, siamo troppo vicini, io sono agganciato, bene, mi ascolti. Benissimo, chiaro chiaro. No, volevo sapere se la radio va bene adesso, perché adesso me l'ho regolato un po' più altino, va. E poco fa c'avevo quando mi serve per parlare da lontano, perché è troppo alto, non va bene da vicino. No, va bene, va bene. Va benissimo. E cappa, da adesso ne ho un po' di più, ripasso con l'altro, da. No, aspetta, sì, Natale già va bene, no, io non avevo capito che tu volevi fare il paragone rispetto a quando eri saturo, è chiaro, così è molto meglio. Poi ti dirò che adesso, come sei adesso, attenuandoti con le refrigenti, sento anche meglio, cioè l'eccessiva vicinanza dà una lieve, leggera, non dico saturazione, ma è meno limpida, invece con le refrigenti, però è una questione di riservizio, di ricevitore mio. Aspetta un attimo che provo a aumentarla la radio. Guarda, l'aumento così, bene va. Perché è aumentata? Non ha aumentato la radio, penso di sì. Natali, siamo troppo vicini, cioè già sei 9,40 questo smitter. Secondo me va anche un po' in saturazione. Prova a fare la prova con Giulio che è più distante. Giulio! Natali, lo stesso, la radio era sempre uguale. Non ha aumentato nulla la radio, non ha aumentato nulla giù. Adesso sì, ma poc'anzi no, adesso sì, un po' aumentato. Guarda, adesso ancora meglio. Sì, ancora più forte, ma comunque io preferivo quella come la prima. E vabbè, questo è un altro capitolai giù. Allora, così è da DX in AM, tipo gli americani. Per me è la più bella l'altra, è la più chiara. Questa si sente che è più forte, ma più completa anche là. Cioè si sente proprio la potenza dello corno, della parola stessa, capito? Guarda, così adesso è normale, come ce l'ho sempre quando entro con questo, dai, adesso è normale la radio, vedi un po' se è più chiara. Sì, per me, a me piace di più così, è un po' più bassa, però è più chiara, secondo me è più chiara così. Sì, ci aumenta tutto, non tocca se. E lo so, io la stavo usando come la uso in banda laterale poco fa questa radio, infatti ero saturo perché è la massima potenza, non me ne ero accorto che io la uso in banda laterale questa qui. Però naturalmente lasciagli i parametri giusti per la banda laterale, non sia che poi ti sfasi la modulazione in banda laterale, capito? No, la uso così, aumento solo la potenza e basta, in banda laterale la uso così. Avete lo stesso segnale, tu e Marco, uguale identico, 9-10. Cappa, va bene, dai. Adesso faccio con l'altra, dai. Questa non fa neanche a parlare in aereo. Ho sentito tutti e due, che ha detto Lombasso. Ho sentito tutti e due. Pari e cieco. Sì. Va bene, dai, signori belli, io vi lascio e vado a preparare la partita, dai, ci sentiamo, perché adesso alle 6 inizia la partita, per cui vado e faccio tutti i preparativi. Ci sentiamo eventualmente domani, perché per stasera non di sicuro, perché adesso qualcosa accendo la televisione, per la partita che dura un'ora e tre quarti, compresi i recuperi, eccetera, per cui si fa già l'ora di cena e poi basta così per oggi per me il baracchino. A domani, grazie per la chiacchierata, ciao Marco, Luca, Natalino, Franco se sei ancora all'ascolto, alle prossime. Saluto a tutti, ascolto fino a lì, poi chiudo. Vai Natale. Cappa, ciao Giulio, dai, buon proseguo, buona partita, grazie per le quattro chiacchiere, avanti Marco, dai, risaluti a Giulio, poi prosegui per Luca, dai. Cappa Giulio, dai, buona partita, dimmi che cala lei, poi appena stacchi, dai. prima di staccare dimmi il canale e ci sentiamo, dai, grazie per le quattro chiacchiere, lo stesso, e alla prochaine fois, vai Luca. Luca non c'è. Sì, o Natalie, non te l'avevo detto, avevo ordinato l'accessorio per leggere gli hard disk interni. Praticamente c'ha sia l'attacco EIDE grande e piccolo e sia il serie latta, perché volevo leggere il contenuto degli hard disk delle torri, quelle che avevo io, no? E funziona, vedo che funziona, legge e scrive correttamente e non c'è problema, alimenta anche l'hard disk perché c'ha l'alimentatorino per dare più ampere per alimentare correttamente l'hard disk. Billy, non l'ha sentito, no? Billy Bad. Brigido, smontato hai? Sì, smontato stamattina alle 8, 15 ore. Cazzo, io la biglia da buona, Manuel. Buonasera. E cosa cazzo devo fare? Se si vuole campare. Ho detto, non l'avevo riconosciuto che era Manuele. Era più basso di radio del solito, dai. Ciao, Marco lì. Sì, hai cambiato radio. È diversa la modulazione, più sembra un baracchino normale, tipo questo. Sì, è un baracchino al sesto, è questo. Vabbè, Fuffi. Brigida. Davvero. Vabbè, Lu. Allora, la riposasi. Già mi voleva che si vada a bloccare. No. Oh, guarda, se senti qua, c'ho un PC bello, mi da prendere. Nuovo. Devo dire nuovo. Ciao, buff. Non c'ho una notifica. Ma lo sai, è HP, Asus, lo sai. Come? Lo sai, HP. No, Asus. Ma lo sai, c'ha la Asus, quei modelli, i primi modelli che avevano fatto. Lo devi vedere, nuovo. Io l'ho comprato, solo che poi alla fine non me ne posso nulla. Cioè, giusto per guadagnarci qualcosa, ma non me lo rivendo quanto l'ho pagato. Manda le foto, provaciere, manda le foto, manda le su WhatsApp. Che computer è, Luca, ma la torre è oppure un portatile? No, un portatile, Natale, tutto ripristinato, è cambiato la pasta di raffreddamento, pulita la ventola, è proprio nuovo, tutto pulito, bello, perfetto, nuovo. E quanto lui? 900 quanto l'ho pagato, è un i3 di processore. Sì, ho capito. Già chiedo se sento. Permetto? Perché a me i portatili non è che mi vadano tanto. Allora, questi portatili qua io per esempio ce l'ho, no? Il mio è un HP, ma alla fine è uguale. Se li metti vicino sono uguali. Al mio gli ho cambiato l'hard disk, gli ho messo la SSD ed è più veloce. No, quello che c'è è buono perché è appena resettato. Però se tu gli metti l'SSD, anche da 500 giga, da 256, quello che vuoi, se non metti niente dentro, cioè, migliora un sacco. Di che generazione è il processore? Non lo so, mi sa, di quinta generazione, mi sa, Marco. Quindi è una stronzata, non lo so. Se io ti dico modello, tu vai su internet e lo vedi, il modello del PC. No, perché il prezzo è basso a quanto lo stai dando, ma perché l'hai pagato lo stesso 200? No, non hai pagato, l'avrei pagato di più. No, 200 euro l'ho pagato. 200 euro. Perché mi serviva un PC di scorta, ma alla fine non me ne posso nulla. Tanto non lo uso. L'avevo pagato, non so, boh, 3,50, 3,90, sono qui, ma è nuovo mi. E l'ha tenuto male perché gente che non sa, tutto sporco, no? Tutto pulito bene, c'ha la ventola incrostata, poi gente, chi fuma purtroppo, ci sa, il fumo va a finirci dentro, comunque tutto pulito bene, bene, lucido, è perfetto. Adesso mando le foto a Manuela, sto. Eia, Natalì, capito hai prima quello che ti ho detto di quell'adattatore? Eia. E non solo, ma oggi mi è arrivato anche l'adattatore per leggere i floppy, quelli interni. i lettori floppy interni alle torri, in modo da riciclare sempre leggere i floppy vecchi. Trasferirli no, che ci vuole troppo tempo, ma leggerli puoi leggere, c'è tanta roba interessante. Già ho capito. Prova. 1, 2, 3, distanza 20 centimetri e va. È così vicino ed è uguale. Guarda che ha mandato le foto, guarda, ce le mando anche a Marco. Sì, adesso le guardo. Sì, mandalo. Tanto finalmente ho cambiato telefono, che l'altro era andato. Tali anche te li ho mandate. No, è nuovo il PC, è nuovo nuovo. Ripeto, quando mi ha dato faceva schifo. Questi se non so, mai con le mani mangiando, che cazzo ne so, la tazza della cazzo sta messa male, è nuovo, nuovo nuovo. Non rivendo un mondezza io. Io l'hai visto, ma no, è un Intel i3. Pensa che dissipava aria calda, era talmente intasato la ventola, che ho dovuto pulita bene, è un bombo. Quelli vanno bene, anche se hanno il processore i3, no, magari anche di generazione B. Quelli vanno bene quando devi fare, scrivere, tipo battere a macchina a casa, che devi scrivere roba, stampare roba, senza fare giochi né roba pesante, capito? Roba da ufficio mio, quelli per l'ufficio vanno benissimo. Sì. E beh, se vuoi un PC potente, allora spendi. Questo per essere come è, va bene. Ripeto, se li metti l'SSD, cambia la musica. Cambia. Che voglia. Adesso la connessione è bassa. C'è una tacchetta di connessione. E mi apre Google. Aspetta, 1, 2, 3, 4 secondi. Ed è bassa la connessione. Se la connessione è potente. Ehi, sì, ho visto, guarda, ho aperto già la prima foto, sembra nuovissimo, almeno la tastiera, no, i poggiapolsi lì, il mouse lì, come si chiama, il touchpad, sembra nuovo. Se non è nuovo. Vabbè, io adesso sono a posto perché tra coso, telefono nuovo, vabbè, il tablet e il computer, sono a posto, dai. Però a quel prezzo era buono da tenere da parte, come computer di scorta, cosa di gioco? Ma il PC è nuovo, anche Natalia l'ho mandato, vediamo poi se l'ha visto. Natalia non l'ha visualizzato ancora. Ci sei Natalia? Vabbè, faccio la doccia, ci devo uscire stasera. Signora, vuole uscire? No, bello c'è bene, sono pensieri di cambiarti gelati. No, la batteria nuova, scherza che la batteria mi si è crepata, porca troia. E la macchina? Sì, praticamente, come si dice, ho messo nei parcheggi in testa con una Mariano, ti capo si chiama. Siccome le mie luci se le lascio accese, dopo un po' si spengono. Sicuramente quel poco che sono rimaste accese che poi si sono spente. Cazzo. Aspetta. Lo stavo dicendo. Niente, me l'ha buttato la batteria a terra, non sono riuscito anche a mettere le moto con un'altra macchina con i capricchi, non volevo giù guarda. E allora l'abbiamo tirata indietro, l'abbiamo messa a strappo, nel tempo di andare a comprare la batteria, tu pensa che quel giorno lì non c'era manco a disposizione, sono andato l'indomani a ritirarmela. Ma comunque sia, una volta che l'ho messa in moto, poi si dice, camminava la macchina, era apposta, era perfetta. C'era la batteria, non se ne scendeva, ma l'ho dovuta cambiare. 60 euro. Costava così. Cazzo, te la lavo io, te la regalavo io, ne ho due, batteria in garage, te la tappa a aperta. Sì, ma questi qua sono un attacco piccolo, Manuel. Un attacco sottino, non c'è un attacco largo, dove c'è il piombo. Sì, adesso mi ricordo, sì, non ci sarebbe. Cappa. Ma cazzo te la sta riscatta così, non è che la giornata ancora? No, quella batteria è vecchia, si vedeva. Ma appunto, cazzo, potevo attaccare il telefono a luce, ma non si è visto, cazzo, cazzo, se potevo capire la bruce. Se progresso. No, è quello, cambiate a posto, danni di garanzia. Purtroppo mi sta portando via un po' di soldi con la macchina. Lo so, manca a me l'appunto lo stesso per il diretto. Vabbè, ormai, pazienza. Vabbè, comunque PC l'avete visto, è nuovo. Ah, ma poi di moda stanno vivendo. Anche il mio è nuovo, mi. Diciamo che non ha manco usure delta cifrato, consumato, nulla. Ha i suoi anni. La batteria è già dura. Adesso sono senza caricabatterie. Però è stato usato. Lo usavano per, boh, se non mi ricordo, forse per navigare. Non lo so. È stato tutto pulito, devo dire, un bel sporco dentro. Immagino. No, io guardo, da quando mi sono aggiunto colorato ultimamente, ma io lo uso poco e niente, lo uso con collega solo nella radio per sentire la musica. Adesso vediamo, poi se decido la bagasse, io mi apro computer niente, le faccio il tutto, la stava tutto intassato, porca paletta, c'è un bivio, va, se poi le facevo danno. Come si dice? Ma sui stessi occhi. Dico, per un motore lo sto vendendo, poi se cambio idea vai, gli metto l'SSD e me lo tengo. Lo potenzio. Il RAM non si può potenziare perché è 4, ma va bene, basta che metti l'SSD e me lo tengo, se non lo vendo di più. Un attimo, Luca, attento un secondo. Via, fate, arrivo subito anch'io. Nataloide. Dove sei tu? Ho chiamato Natalino poco fa, non ha risposto. Aspettando sta Natalino, almeno. Io adesso mi sposto dalla radio che devo farmi la doccia, sennò poi è un casino, dai. Perché adesso ci devo uscire. Uscire una giugana. Cazzo, domani vado a giubilare un battesimo. Per balle. Sì, ero a comando, dai. Sì, mi stai facendo un bel di là, cazzo, compleanni qua, compleanni là. Cazzo, come di solito siamo fatti, Emanuele. E non è che posso, non lo posso permettere, quindi di là, bussi. Ma caro, ne va a pregare. Cazzo, sai, se non si può pregare, da far pregare, altrimenti non vanno. Lo so. La batteria è perché a là che mi sono fatto di 1200 euro. Quanto? 1200. Dove l'hai presa la batteria? La batteria l'ho comprata in via... via 4 novembre, quasi alla fine della via. Ma ho capito. È scontata, ciò costava messa 70, 80. Dove c'è auto di cambi per andare sulla strada dove c'è... dove c'è le pedine. C'è un supermercato vicino, sì. Un negozio di ricambi, sì. Sì, vai, che te la fanno pagare poco. Quel prezzo lì te la fanno pagare. E ma la gira comparata? Vabbè, se devi per altre robe, c'è la macchina, partite, queste cose qua, ti porti le prezzo. No, io lì ho comprato gli ammortizzatori, tutte e quattro, e la batteria. Ho preso anche la centralina, no, la bobina, solo che non era quello il problema, mi hanno rimborsato i soldi perché il meccanico è un cliente di loro, il meccanico è un mio amico, la verità è riuscito a farmi rimborsare i soldi. E meno male, cazzo, a me invece mi è andata male quando ho preso la cosa del Sisti che si bloccava lo stesso perché era duro, l'ho preso e non me l'hanno rimborsato. Infatti che l'ho preso ad Alghero, stava un 80 volte, e poi no, mi devi dare il vizio, qui è là, sto facendo una cosa. E poi l'ho portato da Coso e me ne ha messo un altro e andava bene. Cazzo, me ne ha ciappato tutte e tre, erano tutte e tre di pittura. Purtroppo succede, Emanuele. Vabbè, dai, arrivo subito, vado a farmi la tua. Sì, va. Marco, tutto a posto, sì. Sì, mi stavo... ero attaccato al telefonino, mi stavo guardando un po' di notizie. Poi ho guerre da una parte e quelle dall'altra, proprio ci circondano e ci finiamo in mezzo anche noi. Deia, mi sta venendo anche mezzo a biocco. C'è freddo in questa stanza, se sono i spifferi della finestra, perché io sto passando il cavo, devo lasciare la finestra, non dico sono chiusa, ma cioè lasciare tra le due ante, no, quello in basso, quello spiraglietto, tanto da far passare il cavo dell'antenna che è grosso. Dobbiamo ancora fare il buco, però lo facciamo dopo che questa onda barbarica di muratori se ne sarà andata, capito? Quando hanno finito tutto lo faccio. È successo un macello qua, la prima impresa, sono spariti, sono andati latitanti, c'è uno dei soci che si è intestato tutto, si è fregato i soldi dell'impresa, il materiale dell'impresa, un casino è successo. Ieri notte ero lì a Porto Toro, cioè, facendo il servizio per avere 13 gradi c'erano. Poi sono usciti questi cinghiali, 5-6 cinghiali, e poi come spaccano la macchina. Aspetta, parla un po' più forte, chi è che stava per spaccare la macchina? I cinghiali dove ero lì in servizio la notte. Ah. Che poi sai perché, non è che c'è freddo, ma io sono in, non magliettina, è un polo, ma è sottile sottile, e quindi è come se fossi fuori di casa con un polo sottile, e sotto non c'ho altro, e quindi un po' è troppo. Vediamo se Natalino è rientrato, magari sta anche cucinando a quest'ora. Natalì. Sono qua, sono, ho chiamato poco fa e non rispondeva nessuno. Ma non è che mi sono abbioccato e non me ne sono accorto, no? Che cavolo ne so io? Perché Natalino sta aspettando, No, stavo cercando il canale, dov'è che c'è la partita? E volevo dargli un'occhiata. Juve e Cagliari. Se in chiaro, se non in chiaro. Andate lì, capito cosa ti ho detto prima di quelli adattatori? Che quello Eide e cosa non andava bene per leggere i floppy, i lettori interni dei floppy, perché i lettori interni dei floppy hanno l'attacco a 34 pin e quindi mi è arrivato giù un altro adattatore, che poi è una schedina, mi vedi i circuiti, non ha guscio, capito? E devo ancora vedere se funziona. Io ho capito. E in modo da, te l'ho detto, io ho tanti floppy, a riversarli non fa perché sono lenti, cioè li puoi leggere al volo, non dico che ti serve, però a riversarli tutti ci vuole un lavoraccio. E allora col lettore floppy esterno, ne ho già uno già pronto USB, però siccome nelle torri c'erano dei lettori floppy fatti bene, di marca Samsung, fatti belli pesanti, e quelli li voglio riutilizzare, non li voglio buttare. E infatti hai ragione. Poi vabbè, c'ho questa mania, mi piacciono le videocassette, c'ho un bel di videoregistratori, cassette vergini, floppy usati con dati dentro, mi piacciono queste cose retro, poi magari me le sbatto al sedere, però è bella perle, fai, ma non è. Dai, già rimane un attimo in cosa, che prendete voi, dai. Ehi, fra un po' dovrei cucinare, no, Natalie? Io ce l'ho già la cena, perché oggi mamma ha messo nell'acqua la pasta, voleva la pasta al burro lei, no? Che vuole roba in bianco perché è un po' disturbata di stomaco e di pancia. Ma all'anima ha messo mezzo chilo di pasta nella pentola, e ormai era bagnata e ne ho dovuto fare mezzo chilo e per quattro persone. Quindi stasera c'ho la, me la devo sorbire pure per cena, capito? Passa il burro col parmigiano, però io me la faccio più sfiziosa e ci metto anche dentro una scatoletta di tonno. E da poi grazie, magrolino, non mangiare troppo, fa come me che sono magrolino. Sì, magrolino, l'altro giorno chi era? Stavo ascoltando chi era Marino, stava parlando con te, com'è che ti hanno definito? Barri di bocco, una cosa del genere. Barri di bocco? Ah, Torino era, non era Marino. E qualcosa del genere, insomma, già sei bello nutrito quando ho capito, là. Sì, barri di bocco, quello è perché si mette la schiaccia loro, ma sono magro, ho magro. Vabbè, no, io da quando